Prima edizione. Ancora una buona giornata, ancora un buon inizio di questo venerdì da Anna Migliorati, prima edizione. Vogliamo provare a strapparvi un sorriso anche questa mattina, prima delle notizie sulle prime pagine dei quotidiani. Dalia, Giulia, insomma voi l'avete capito, parliamo del giallo della prima bimba di Francia, la bimba di Carla Bruni, Nicolas Sarkozy, questo pare il nome, però c'è anche, aggiungiamo una postilla, proviamo a chiederlo alla stessa Carla Bruni. Per la verità l'hanno fatto con un video postato su Twitter e poi messo su YouTube Fiorello e Baldini realizzando una finta intervista con Carla Bruni. Siamo andati un po' a curiosare nella rete, eccola qua. Allora, subito dopo il parto abbiamo qui con noi Carla Bruni. Buongiorno Carla. Buongiorno. Buongiorno. Allora, finalmente ha partorito. Che volgarità! Ah, perché non? Non si dice così, come si dice in francese? Scodelle. Ah, senta, scodelle. Scodelle. Ma è maschio o femmina? Ah! Je ne sais pas si è un femme o un maschio. Ah, ma glielo dico io, una femmina. Ah! Ma perché? Scusi, cosa voleva lei? Un cincilla. Un cincilla, vabbè. Senta, ma Sarkozy era con la Merkel. Quello stronzo. Vabbè, stronzo, è impegni istituzionali. Chi le ha retto la mano? Chi le diceva spingi, spingi? Jean-Paul Gaultier. A Jean-Paul Gaultier lo stilista. Qui non si dice spingi, che volgarità. Ah, no, si dice in francese? Pussy. Ah. Chicche della rete, sorprese della rete, speriamo di avervi strappato un sorriso. C'è la viabilità, tra poco torniamo con le prime pagine dei giornali. Prima edizione. E vi portiamo subito a Roma questa mattina con prima edizione. Tra qualche istante diamo uno sguardo ai giornali perché abbiamo già un ospite alle 6:18 minuti, il capo della Protezione Civile di Roma, Tommaso Profeta, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Andiamo subito a Roma perché vogliamo subito capire se questa mattina nella capitale si può circolare tranquillamente. La promessa era che questa mattina avrebbe riaperto alle 5:30 la linea A della metropolitana, sono le 6:18, si circola? Sì, allora la situazione è rientrata nella normalità, i nostri volontari hanno lavorato con i vigili del fuoco tutta la notte e quindi le strade consolari sono praticabili, la città può riprendere normalmente il suo ritmo e le metro sono aperte sia la linea A che la linea B. Ecco, la linea B era un po' più complicata, ce l'avete fatta questa notte? Ce l'abbiamo fatta, è rimasta chiusa solo la stazione Colosseo perché lì, come sapete, c'è stato un problema di una conduttura fognaria che è scoppiata e quindi questo richiederà un po' più di lavoro, ma in giornata contiamo di riaprire anche quella. Per chi arriva da fuori Roma questa mattina, si può azzardarsi ad andare nella capitale tranquillamente? Assolutamente sì, già da ieri le strade consolari erano state riaperte e pulite, quindi non c'è nessun problema di circolazione. Avete lavorato ovviamente tutta la notte, la situazione, ecco, noi tra l'altro siamo a Milano, per cui le chiedo anche, piove? Molto banalmente. No, a Roma no, per fortuna non piove, forse oggi aspettiamo qualche pioggia leggera, ma certamente non la situazione di ieri che è stata una situazione a carattere assolutamente eccezionale. Ecco, lei mi diceva oggi si attende una pioggia leggera, avevate avvisaglie di quel che è successo ieri? Anche noi eravamo in diretta, hanno cominciato ad arrivare telefonate, piove a Roma, ci è voluto un attimo per capire cosa stava succedendo. Ma guardi, noi avevamo un'allerta meteo per fenomeni assolutamente inferiori a quelli che si sono verificati. D'altra parte, prevedere l'intensità dei temporali è una cosa molto difficile. Questa previsione era intorno ai 20-40 mm di pioggia e ieri ne sono caduti 120 a Roma, quindi diciamo è una situazione triplicata rispetto a quella che era stata preannunciata. Ripeto, è una situazione assolutamente eccezionale. Roma ha conosciuto piogge maggiori nel 1953. Quindi un evento con ritorno cinquantennale, insomma, un evento eccezionale. I 7.000 fulmini, anche quelli un evento eccezionale? Beh, assolutamente sì. La situazione è stata veramente critica per 3 ore nella capitale e quindi ha provocato inevitabilmente dei disagi che comunque sono stati superati tutti, la stragrande maggioranza nella giornata di ieri. E stamattina contiamo di chiudere gli ultimi interventi anche aiutando i privati come abbiamo fatto dalle prime ore di ieri. Allora, grazie, rassicuriamo chi è già sveglio e deve mettersi in macchina questa mattina, il capo della Protezione Civile di Roma, grazie Tommaso Profeta. Grazie a voi. Buongiorno. E quindi tranquilli, insomma, pare per il momento a Roma la situazione è tornata alla normalità. Andiamo sui giornali, come sempre, però, perché anche così apriamo la giornata. Naturalmente a dominare sulle prime pagine dei quotidiani quest'oggi è sostanzialmente una notizia, vale a dire la morte di Gheddafi e forse la fine della guerra in Libia a questo punto. Cominciamo dalla Repubblica. Ucciso Gheddafi, la guerra è finita, catturato a Sirte, poi l'esecuzione. Tra i mille commenti che ci sono sui quotidiani questa mattina, la Repubblica, scrive Vittorio Zucconi, quel corpo profanato è accaduto di nuovo. Lo abbiamo visto nel gorgo di violenza che le immagini del linciaggio di Gheddafi hanno registrato. Il culto della personalità degenera nell'odio per la persona. L'adorazione del vivo chiede la profanazione nazione del morto, Vittorio Zucconi. Corriere della Sera, un colpo alla tempia. Dopo la cattura, le ultime parole di Gheddafi: non sparare che ti ho fatto. E la scena ripresa da un telefonino, anche questo il segno dei tempi. L'ultimo giorno di Gheddafi, scrive La Stampa, il colonnello ammazzato dai ribelli a Sirta, nascosto in una buca, ha implorato: non sparate, le tane dei dittatori. Così sulla Stampa. Berlusconi, sic transit Gloria Mundi, e Gloria Mundi è anche il titolo del commento questa mattina di Massimo Gramellini. Inizia così: non c'è mai nulla di glorioso nell'esecuzione di un tiranno. Il Messaggero, Libia, la fine di Gheddafi, ucciso con un colpo alla testa, gridava non sparate, scoperto dai ribelli in una buca a Sirte, ma è giallo sulla ricostruzione. Il Sole 24 Ore, il titolo quanto mai sintetico ma decisamente chiaro: è finita. Così il Sole 24 Ore, la morte di Gheddafi, gli insorti espugnano Sirte e uccidono il Rais, adesso la Libia è libera. Le prime pagine quasi tutte dominate da questa notizia, oltre che dalle polemiche per il dubifragio a Roma, di cui però abbiamo già parlato, ma c'è anche un'altra notizia ed è in grande evidenza sul Sole 24 Ore. Il Ignazio Visco al vertice di Banca Italia, il nuovo governatore, il vice direttore di Palazzo Koch, designato dal Premier Draghi, ottima scelta. E scrive ancora Sole 24 Ore: scontro nel governo, poi la mediazione Berlusconi-Napolitano. Ora in Via Nazionale torna il sereno, l'analisi di Claudio Marroni sul Sole 24 Ore, c'è da augurarsi che sia così. Altri due commenti sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore: Guido Gentili, scelta giusta per una sfida difficile, e Stefano Folli, nel segno della diarchia obbligata, Quirinale Premier, così il commento. Questa notizia interessa molto anche le pagine dei quotidiani internazionali, la nomina del governatore di Banca Italia, perché ci sono poi tutta una serie di nomine a scacchiera che interessano l'Europa. Un commento ce lo riserva il New York Times, che scrive: il presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi ha effettuato una scelta a sorpresa per il prossimo governatore della Banca d'Italia, mettendo fine a una prolungata impasse. Ma soprattutto il New York Times mette l'accento su un'altra questione, vale a dire le pressioni che erano arrivate dall'estero. Il presidente francese Nicolas Sarkozy aveva premuto per Bini Smaghi, la cui scelta avrebbe lasciato posto a un francese nel board della BCE, così il New York Times. Ancora uno sguardo ai giornali invece sportivi, andiamo sulla Gazzetta dello Sport. Sollievo Juve, così titola oggi il caso: è sotto inchiesta l'impianto inaugurato all'inizio della stagione. Che giornata Torino, scrive la Gazzetta dello Sport. Un giudice voleva chiudere il nuovo stadio bianconero, per il comune la prefettura è agibile, domani si gioca regolarmente con il Genoa. Grande inaugurazione, già i primi guai per lo stadio di Torino. Voltiamo pagina, io saluto Enrico Pagliarini. Buongiorno a tutti. Allora, in questi giorni, Enrico, tu stai seguendo la nuova edizione di SMAU, che si chiude oggi, una fiera che si è trasformata in un momento di incontro per gli operatori del settore tecnologico, e tra tante persone che hai incontrato questa mattina vuoi anche raccontarci una storia, perché ce n'è una molto speciale che riporta a 40 anni fa, il 1971, è così? Esatto, Anna. Il 15 novembre del 1971 la Intel annunciava la nascita del primo microprocessore, il 4004. A capo del progetto alla Intel, e quindi quello che è considerato l'inventore del microprocessore, c'era Federico Faggin, un italiano che pochi anni prima si era trasferito in California. Lo scorso anno Faggin ha ricevuto dal presidente Barack Obama la medaglia per la tecnologia e l'innovazione, che è uno dei riconoscimenti più importanti per gli inventori americani, e molti ritengono che Faggin potrebbe essere un candidato al premio Nobel. Ieri è stato, direi, molto emozionante incontrare Faggin, e vi propongo una parte di una lunga intervista che faremo ascoltare a 2024, tra qualche settimana, il momento in cui lui parla della notte in cui nacque il processore. Sì, non era sera, a dire la verità, erano le 4 del mattino, perché io ho ricevuto i primi campioni del 4004 in gennaio del 1971, verso la sera, e ho speso gran parte della notte a fare le prove, e naturalmente ero estremamente nervoso perché a quel tempo avevo già progettato 3 altri circuiti integrati che facevano parte di questa famiglia, e l'ultimo che rimaneva era il microprocessore, il CPU. Tutto sembrava che funzionasse, cioè funzionava come l'avevo progettato. Il nervoso e l'ansia che mi tormentava si trasformavano in entusiasmo, sì, un senso di trasporto, di contentezza. Ecco, infatti la domanda è, quell'alba, quella sì. Notte, diciamo, lei aveva già capito e compreso le conseguenze di quella cosa? Beh, quella notte, diciamo, non quella notte in particolare, ma da quando partì quel progetto, io ero sicuro che il microprocessore avrebbe cambiato il mondo, però devo dire che avevo immaginato e pensato una piccola frazione di tutte le cose che poi sono successe. In realtà sono stato io stesso sorpreso dalle profonde trasformazioni che sono avvenute in 40 anni, e soprattutto la cosa che non era difficile capire era l'impatto sociale. Cioè io potevo, per esempio, avevo già immaginato che la gente avrebbe avuto, molte persone avrebbero avuto un computer da tavolo, tipo un personal computer, con cui avrebbero fatto le cose più svariate, eccetera, ma non avevo mai immaginato tutte le possibili applicazioni che il personal computer avrebbe avuto nel corso degli anni. Se uno mi avesse detto il microprocessore 40 anni fa permetterà alla gente di comunicare in videoconferenza a $0 tra l'Australia e gli Stati Uniti, avrei detto: tu sei matto. Senta, lei l'ha incontrato e l'ha conosciuto Steve Jobs? Sì, l'ho conosciuto. Ci ha parlato, litigato? Sì, no, non ho mai litigato, ma è una persona di grande qualità per quello che riguarda capire il business, no? Capire proprio, aveva un istinto incredibile nel capire il tipo di prodotto che la gente voleva. Era quasi maniaco, no? Nel pretendere dai suoi ingegneri che il prodotto fosse perfetto, e questa idea di questo perfezionismo ha servito l'Apple molto bene. Prima edizione. E alle 6:36 è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizio e ben ritrovati all'appuntamento con le storie dell'Italia in controluce. Oggi parliamo della campagna italiana, minacciata dal cemento che continua purtroppo a coprire aree sempre più vaste del nostro territorio. Si chiama Paesaggi Agrari, l'iniziativa di Italia Nostra con Coldiretti, che ha come obiettivo proprio la sensibilizzazione delle persone verso questo aspetto della nostra vita, e cioè la tutela del territorio e del paesaggio. Marco Carminati intervista Alessandra Mottola Molfino, presidente di Italia Nostra. Molti pericoli corre la nostra terra e bisogna dire che noi vogliamo salvarla, e Coldiretti è con noi perché è pane, e più vogliamo più pane, vogliamo riprenderci la terra, vogliamo più pane e meno cemento, perché negli ultimi 10 anni, sono dati Istat, la campagna italiana ha perso 3 milioni di ettari di superficie coltivata, e le ha persi un po' per abbandono delle terre, perché i contadini non vengono più remunerati e quindi quindi è molto difficile vivere oggi in campagna, certo. Non rende la campagna, poi perché ci sono state occupazioni delle terre anche fertili con immensi campi fotovoltaici, invece di coltivare il grano stiamo coltivando il silicio, e poi le città che si espandono e occupano terre agricole, oppure i grandi centri commerciali come Motor City nel Veneto, che hanno occupato circa 7 milioni di metri quadrati. Ecco, quindi voi denunciate questo dato di fatto, che in realtà il paesaggio rurale si sta lentamente depauperando. Non tanto lentamente. Neanche tanto lentamente. Sì, molto velocemente. Invece noi dobbiamo puntare a un'economia diversa del nostro paese, che non sia basata sullo sviluppo del cemento e delle industrie pesanti, inquinanti, quanto sulla vera ricchezza che è la nostra terra, la terra da pane, e i beni culturali e il patrimonio artistico ci danno, sono la nostra grande ricchezza, ci danno la possibilità di sviluppare il nostro paese in modo nuovo e diverso. Ecco, voi adesso state celebrando proprio da... Stiamo facendo conoscere agli italiani la terra, le campagne, quindi visitate le campagne, visitatele con noi, ci sono più di 40 eventi sparsi da nord a sud, da est a ovest, e con le sezioni di Italia Nostra, con i soci di Italia Nostra potete anche gustare i prodotti DOP, i prodotti speciali del nostro paese, potete vedere e conoscere fattorie, campagne, sempre in collaborazione con Coldiretti. Ecco, quindi il contatto diretto con questa realtà per aiutare i cittadini a rendersi conto di persona di che cosa sta succedendo. Ma poi c'è anche un dato positivo che viene dalle statistiche Istat, dal censimento dell'agricoltura, che gli agricoltori stanno ringiovanendo, cioè sono i giovani che tornano, che si riprendono la terra, quindi noi vogliamo sostenere questi agricoltori innovatori, i giovani, le famiglie che tornano alla terra, e poi soprattutto vogliamo sostenere e finanziare i prodotti agricoli legati ai paesaggi che fanno cibo di qualità. Ed è tutto anche per oggi. Italia in controluce, scriveteci controluce@radio24.it. Buona giornata. Giornata da Alessio Maurizi, ancora una buona giornata, un buon venerdì anche da Anna Migliorati, prima edizione. Rassicuriamo subito i romani, si circola questa mattina, sono aperte le linee metropolitane, sono state sgombrate dall'acqua le strade dopo il nubifragio di ieri, quel che resta però, oltre a un qualche goccia ancora che cade dal cielo, sono le polemiche. Io saluto l'assessore alla mobilità del Comune di Roma, Antonello Aurigemma, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Assessore, dicevamo, questa mattina va meglio la situazione, ma davvero ieri non si poteva fare nulla di diverso, perché è un dato eccezionale, cittadini, opposizioni, sindacati, associazione, a questo punto le accuse si sprecano, non si poteva fare altro? Guardi, innanzitutto diamo una notizia che è giunta da mezz'ora, entrambe le Pedro... Qualche sulla linea, eccolo, ci siamo? Sì. Ok. Ecco. Beh, la buona notizia diamola. La buona notizia è che entrambe le linee della metropolitana sono attive soltanto con la chiusura della fermata Colosseo. E quindi, pronto? Sì, cominciamo a dire che questa mattina si può, chi deve uscire di casa lo può fare tranquillamente. Sì. No, per quanto riguarda l'eccezionale portata del nubifragio, sicuramente qualche accortezza in più si sarebbe limitato qualche disagio, perché purtroppo coincide anche con il periodo autunnale, quindi forse con qualche pulizia in più delle caditoie ci sarebbe stato qualche tratto di strada che avrebbe subito meno disagi, ma l'evento della portata è stato talmente eccezionale che sicuramente la rete fognaria di Roma non è stato in grado di assorbire una portata di acqua che, perlomeno da come, dai dati che l'avrebbe assorbita più facilmente se fosse stata pulita. Sì, ma non l'avrebbe assorbita interamente, perché l'avrebbe assorbita di più. Ne avrebbe assorbita di più, avrebbe sicuramente alleviato qualche disagio, ma la portata d'acqua dai dati della Protezione Civile è stata talmente eccezionale che in due ore è caduta l'acqua che normalmente cade in due mesi all'interno della città. Ecco, assessore, quindi... però le difficoltà di manutenzione che vengono denunciate sempre più spesso e che poi ovviamente sono un problema in queste situazioni più che nella normalità, hanno a che fare con i tagli? No, il problema è una mancanza di investimenti, cioè la rete fognaria di Roma, che è una rete insomma, molto datata, è la stessa rete quando Roma aveva 2 milioni di abitanti. Quindi naturalmente la sovraesposizione di queste caditoie, la sovraesposizione del collettore è talmente datata che quando c'è un evento di portata eccezionale crea disagi nel ricircolo del riflusso dell'acqua. Oggi Verdi hanno detto che presenteranno un esposto alla Procura della Repubblica per disastro colposo. Secondo loro è stata la cronaca di un disastro annunciato. Ma davvero allora in questo quadro, nel quadro che lei ci dipingeva, Roma è una città a rischio? Perché lei parlava di autunno, sta arrivando l'inverno. No, io quello che dipingo è un quadro che non prevedeva un nubifragio di 120 millilitri d'acqua a Roma dal 1953. Il problema, anche Madrid nella visita del Papa del 27 agosto con un nubifragio di una portata che era di gran lunga inferiore, ha avuto il sistema metropolitano allagato. Il problema purtroppo è che le perturbazioni atmosferiche che si stanno sviluppando in questi ultimi anni diciamo hanno delle portate veramente eccezionali. Qui il problema non è di strumentalizzare politicamente, anche perché va ricordato che in poche ore dall'alba di ieri diciamo, si è riattivato il sistema grazie all'intervento sia dell'AMA, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, del trasporto su gomma, così come diciamo, siamo riusciti nell'arco di 4 ore a riattivare un sistema, anche se parziale, di entrambe le linee della metropolitana. Quindi qui il problema si tratta di andare a capire adesso. Diciamo, vedremo nel sopralluogo che faremo oggi pomeriggio come poter predisporre una serie di servizi aggiuntivi, soprattutto per garantire in questi casi di evento eccezionale il servizio del trasporto pubblico e evitare ovviamente la paralisi, perché ovviamente anche quello vi aiuta. Ecco, avete chiesto lo stato di calamità naturale, c'è stata una sollevazione, la Polverini è parsa un po' fredda, la Lega ha polemizzato, non possiamo nascondere. Si dice, tornando ancora sui fondi di Roma Capitale, si usano per i festival, ieri si è detto un po' di tutto. Vi aspettavate una risposta così? Ma io molto onestamente queste risposte non fanno altro che denotare un po' la mancanza di senso istituzionale e soprattutto la mancanza di politica che in questi ultimi anni si sta sviluppando. Io così come obiettivamente penso che se forse ci fosse stata un po' più di manutenzione sulle caditoie si sarebbero alleviati i disagi, penso altrettanto che difficilmente, anche se ci fosse stata la manutenzione, non si sarebbe creato nessun disagio alla città. Io penso che la politica dovrebbe riappropriarsi un po' più di quel senso civico e delle istituzioni. Roma ieri, con la situazione atmosferica che c'è stata, difficilmente diciamo, non si sarebbero arrecati disagi ai cittadini. Poi la strumentalizzazione fa parte un po' ormai dell'agone politico, però penso che questo sia una mancanza di rispetto non solo per gli oltre 5.000 lavoratori che sono intervenuti, ma soprattutto anche per la persona che purtroppo è deceduta nella mattinata di ieri. E quindi vorrei invitare un po' tutte le forze politiche, al di là dello schieramento e dell'imminente competizione elettorale, a riappropriarsi un po' più del senso delle istituzioni. Ringrazio l'assessore alla mobilità di Roma, Antonello Aurigemma, e lo ribadiamo ancora, chi in questi minuti deve uscire di casa a Roma sappia che le linee della metropolitana sono riaperte. Grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Prima edizione. Destino questa mattina, restiamo ancora a Roma, questa mattina va così, però parliamo d'altro. Saluto Sofia Sabatino, buongiorno. Buongiorno. Rete degli studenti, l'abbiamo sentita la mattina che stavano andando a portare le sveglie a Palazzo Chigi per la manifestazione degli studenti. Nel frattempo c'è stato in mezzo quel che è successo sabato a Roma per la manifestazione degli indignati e quindi siamo in tutt'altro scenario. Questa mattina gli studenti saranno di nuovo in piazza insieme alla FIOM per il sit-in a Piazza del Popolo. Sofia, innanzitutto perché questa scelta? Sì, noi siamo sempre stati in piazza a fianco dei lavoratori proprio perché crediamo che questo governo stia facendo pesare la crisi prima di tutto sui più deboli, con un ragionamento assolutamente sbagliato per cui si taglia sul diritto allo studio, su scuola, università pubblica e appunto si continua a penalizzare i lavoratori, anche perché poi quello che sta succedendo in particolare ai lavoratori della FIOM è assolutamente scandaloso perché si continua studenti a operai, lo si è visto anche in altri momenti. Sì, tu eri in piazza, eri in strada sabato? Sì, io ero in strada sabato. Perché oggi sarà diverso? Secondo ma, te? Diciamo che anche quello che è il senso del partecipare alla manifestazione è proprio quello di oggi, è proprio quello di dare anche una risposta a quello che è successo sabato, un certo senso di ripartire, di rilanciare la mobilitazione partendo proprio dalle idee, dalle proposte. Infatti faremo anche un'assemblea in cui tutti... Avrete questa volta un servizio d'ordine? Sì, sicuramente. Anche se sarete seduti, per cui insomma è un'altra situazione? Sì, ci sarà il servizio d'ordine della FIOM, ci sarà insomma la CGIL in piazza e sarà sicuramente una situazione diversa da quella di sabato. Tra voi vi siete guardati in faccia cercando un po' chi diciamo si è comportato diversamente sabato in questi giorni? Assolutamente. Sì, abbiamo fatto lunghe riflessioni su anche cosa sia successo sabato in piazza. E cosa avete concluso? Ma che sicuramente la violenza va isolata politicamente prima, che non si può pretendere di isolarla direttamente in piazza come abbiamo visto. Siete convinti di aver fatto qualche errore, qualche ingenuità? Sì, sicuramente potevamo agire diversamente nel cercare di escludere, di lasciare fuori una serie di soggetti che comunque poi hanno insomma utilizzato la violenza per rovinare un corteo comunque ampio, pacifico e con tanta voglia di reagire alla situazione attuale. Sicuramente non è stato una soddisfazione, c'è tanta delusione, ma oggi vogliamo proprio ripartire dalla speranza e da un autunno di mobilitazione che comunque non possiamo fermare ora, assolutamente non accettiamo. Sofia, abbiamo ancora pochi secondi, ti faccio una domanda. Voi avete moltissimi filmati, foto sui telefonini. Se riconosceste un vostro amico, lo denuncereste come è avvenuto a Londra? Ma noi crediamo che sicuramente non è con la criminalizzazione e la repressione che si dà una risposta a quello che è successo sabato, infatti siamo anche contrari ai provvedimenti di Alemanno e al delirio di Maroni sulle cose da fare per risolvere la situazione. Poi sicuramente ecco, chi ha fatto delle violenze deve sicuramente essere punito e pagare, su questo non c'è dubbio. Sul denunciarlo personalmente sinceramente non lo so, anche perché abbiamo visto che molte delle persone che hanno fatto violenze sono ragazzi molto piccoli, quindi forse ci si dovrebbe più interrogare. Però le violenze le hanno fatte. Sì, assolutamente sì. Va bene, oggi in piazza allora con la FIOM, speriamo sia una giornata più tranquilla. Grazie nel frattempo Sofia Sabatino, Rete degli Studenti, buona giornata. Alessandro Milan, eccoci qua. Buongiorno a tutti, eccoci, buongiorno. Raffreddore, come va? Bene. Bene, meglio, ecco. Meglio. Un'altra buona notizia, siamo riusciti a darla. Dai giornali cosa ci racconti invece? Ci sono tante notizie, ovviamente ci concentreremo sulla vicenda Gheddafi, ci sono tantissimi articoli che riguardano la fine, l'ultimo giorno del Rais, no? D'altronde anche molte fotografie oggi sui giornali, emblematiche di questa situazione. In questa situazione difficile. Poi ci sono anche tante storie curiose. Una tra queste, c'è stato un parto in diretta di una star del Grande Fratello che ha paralizzato per due giorni, con l'arrivo delle truppe Mediaset, un ospedale a Roma. È ovviamente sempre a Roma. Ieri è stata veramente una giornata difficile. A Roma sì, abbastanza. Ci voleva anche questo. Va bene, naturalmente solo qualche chicca da Alessandro Milan. Alle 7.20 c'è la rassegna stampa, tra poco c'è GR24, anche noi naturalmente parleremo e molto del dopo Gheddafi. Per il momento ci fermiamo qui, ti lascio con Viola Bottoni e Carmelo Lauricella, noi ci risentiamo tra pochissimo. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati.